e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Carissimi, buongiorno a tutti e ben ritrovati a Cuore Denari. Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a te, buona settimana. Esatto, settimana. Allora, la settimana scorsa è stata ricchissima di novità per il sistema bancario italiano e noi vogliamo continuare a presidiare questo argomento per i nostri ascoltatori, perché volenti o nolenti il tema della solidità del sistema bancario ci riguarda tutti e dobbiamo essere sempre ben informati sullo stato di salute della nostra banca, della nostra, ma anche di tutte le altre a quanto pare. E a proposito di salute, questo weekend è stato un weekend ricco di notizie anche sul fronte della salute. Vi daremo tra poco un rapido aggiornamento della situazione con l'obiettivo di suggerirvi degli spunti di discussione, riflessione e approfondimento che troverete anche con le interviste sulla pagina di Cuore Denari. Vi anticipo rapidamente i temi principali che riguardano il mondo bancario che tra poco approfondiremo con Luca Davide del Sole 24 Ore. Intanto in borsa continua l'effetto della nascita del Fondo Atlante, il fondo di stabilizzazione da 6 miliardi a cui tutte le banche sono chiamate a concorrere con un peso molto importante per Intesa e Unicredit. Poi venerdì è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del decreto che riforma la governance delle banche di credito cooperativo, introduce la garanzia dello Stato sulle sofferenze bancarie e sono scattati proprio da venerdì scorsi i 2 mesi entro i quali scegliere se entrare o meno della nuova holding. Questa scelta devono farla le piccole banche di credito cooperativo. E cosa significa questa notizia per i clienti di queste banche? Che lo capiremo tra poco. E poi tra oggi e domani, presumibilmente stasera verso le 18, la Banca Popolare di Vicenza fissa la forchetta di prezzo per la sua quotazione in borsa e poi per l'aumento di capitale. Subito dopo la fissazione del prezzo dovrebbe anche scattare l'offerta dei titoli e ricordiamo che questo è anche il primo test importante dell'utilizzo del fondo Atlante. Infine, novità sul matrimonio fra Popolare di Milano e Banco Popolare, banche che sono sempre piuttosto in rialzo a Piazza Affari da qualche tempo. Moody's ha messo sotto osservazione i due istituti di credito per un'eventuale revisione al rialzo del giudizio, ma intanto entro metà maggio sarà pronto il piano industriale del nuovo soggetto bancario, lo ha dichiarato settimana scorsa l'amministratore delegato della BPM Giuseppe Castagna. E per quanto riguarda invece le notizie di cuore, partiamo da Barcellona dove gli esperti riuniti al 51esimo congresso internazionale sul fegato lanciano l'allarme. L'incidenza dell'epatite C è in aumento tra le donne in età fertile. Il contagio avviene per trasmissione sessuale, ma attenzione, sotto accusa la mancanza di sterilizzazione e pratiche igieniche nei trattamenti estetici. Tatuaggio, piercing, manicure, ma anche laser o i filler. Trovate un'intervista sulle nostre pagine della professoressa Erika Villa, che è ordinario di gastroenterologia all'Università di Modena. Dall'America invece arriva la conferma che il virus Zika, trasmesso dalle punture di zanzare, causa la microcefalia. Anche in questo caso, se volete un approfondimento, abbiamo l'intervista sulle pagine di Cuore Denari di Alberto Mantovano, professore di patologia generale all'Humanitas. Buone nuove invece per gli allergici. Siamo in un periodo clou dell'anno, bene, arriverà il primo vaccino anti-acari che è già stato registrato in 11 paesi europei e in Giappone, dovrebbe arrivare in Italia entro la fine dell'anno. Se volete saperne di più andate sulle pagine di Cuore Denari, aggiornamenti con un'intervista del dottor Alessandro Fiocchi che ci racconterà anche dei nuovi farmaci che arrivano per le forme grave di asma, quindi se siete allergici non perdetevi il nostro approfondimento. E passiamo a una notizia di cronaca che ci offrirà invece lo spunto per parlare di un disturbo alimentare in aumento. L'avete letto, è mancata Laurence, la figlia di Chirac. Da quando aveva 15 anni soffriva di anoressia mentale, è una malattia che sta aumentando anche tra le bambine. E questo, da questa notizia di cronaca partiremo per l'approfondimento della seconda pagina di Cuore Denaro, un'occasione anche non solo per commentare questo caso, ma anche per fare un po' una considerazione sul rapporto che ciascuno di noi ha con il cibo. Ci aiuterà un grande esperto e parleremo poi anche di un nuovo campo di studi, la psichiatria nutrizionale, che promette grandi cambiamenti nella cura del nostro benessere psichico partendo proprio da alimentazione. Quindi stanchezza, stress, ansia, insonnia forse potrebbero essere curati a tavola. State con noi per scoprire le ricette. Allora, banche, banche e ancora banche. Peraltro, Nicoletta, ti ricordi i 10.559 risparmiatori colpiti dal default di Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti, Cari Ferrara, le 4 banche risolte. Come potrei dimenticarli? Ci sono delle buone notizie in arrivo, perché il governo dovrebbe proprio farlo sapere, peraltro, tra oggi e domani. Insomma, tra oggi e domani ci sono tante notizie ancora che riguardano il mondo bancario. Dovrebbe far sapere se intende rimborsare tutti gli obbligazionisti integralmente di tutto quello che hanno perso. All'inizio c'era una dotazione nel fondo, appunto, salvabanche di 100 milioni di euro, anzi salva obbligazionisti. Questo fondo potrebbe essere aumentato, anzi dovrebbe essere aumentato quasi certamente a circa 300 milioni di euro, proprio con l'obiettivo di rimborsare totalmente la stragrande maggioranza dei 10.559 risparmiatori che hanno acquisito, sottoscritto direttamente le obbligazioni subordinate delle quattro banche. Questa è una notizia a cuore denari. Benissimo. E noi appena il ce l'avremo si solleva. Esatto, e ecco. Il portafoglio pure un po'. Non appena ce l'avremo nero su bianco, ritorneremo a chiamare tutti i nostri subito. Esperti che ci spiegheranno come fare la domanda per rientrare subito in automatico ripossesso appunto di questo denaro. Detto questo, abbiamo fatto prima un veloce excursus di tutte le notizie sul mondo bancario che movimenteranno il settore questa settimana, ma andiamo un po' più nel dettaglio con Luca Davide del Sole 24 Ore. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, da che cosa partiamo? Intanto cominciamo proprio, perché poi tra l'altro questo sarà un tema che approfondirò dalle 11 in avanti, tema Popolare di Vicenza. Allora, perché introduco subito l'argomento con questo tema, con una banca appunto veneta che è stata oggetto di tanto dibattito nell'ultimo anno, perché per tante ragioni, appunto l'abbiamo spiegato insieme a Veneto Banca, insomma è stata messa un po' sotto accusa per una gestione non proprio corretta da parte degli ex manager. Detto questo, oggi questa banca, Luca, fissa il prezzo con cui dovrebbe quotarsi in borsa e poi fare un prossimo aumento di capitale. Perché questo è il primo test dell'utilizzo del fondo Atlante? Ci spieghi un po' meglio che cosa succede in questi giorni per questa banca? Allora, diciamo una cosa, Popolare di Vicenza è una banca in difficoltà, è una banca che deve varare un aumento di capitale importante, un aumento da 1,75 miliardi, e che gli servirà per aumentare la solidità patrimoniale, perché la Banca Centrale Europea lo richiede, perché ci sono difficoltà forti, insomma, per la sua sostenibilità. Bene, questo aumento di capitale ha subito nel corso degli ultimi mesi diverse vicissitudini, complice anche una crisi generalizzata sul mercato bancario italiano. Oggi, in queste settimane, e in particolare appunto tra oggi e domani, verrà definito il prezzo al quale verranno offerte le azioni di nuova emissione. Perché questa forchetta di prezzo diventerà significativa e indicativa? Perché segnalerà sostanzialmente qual è il clima di fiducia che si è creato, insomma qual è l'attesa e la positività che c'è da parte degli investitori per il completamento di questo aumento di capitale, che comunque è garantito, perché appunto un fondo, il cosiddetto fondo Atlante, cioè lo strumento con cui il governo ha pensato di risolvere buona parte dei problemi delle banche italiane, sta entrando ormai in un percorso di piena operatività. Allora, sì, no, peraltro stavo ricordando che per questo aumento di capitale garantisce in primo luogo Unicredit, mentre per quello che farà per le operazioni appunto straordinarie che metterà in campo Veneto Banca ci sarà Intesa San Paolo a garantire, giusto? Esattamente. Unicredit oggi diciamo che ha chiesto di essere aiutata in questo percorso di affiancamento e di garanzia l'aumento di capitale. Il Fondo Atlante ha garantito una rete di protezione, un cosiddetto backstop, ma è di fatto una rete di protezione che assicura che questo aumento di capitale verrà portato a termine. Il prezzo, la forchetta di prezzo che oggi verrà definita, segnalerà anche la convenienza degli investitori a partecipare, perché più sarà basso il prezzo, maggiore sarà la convenienza degli investitori a partecipare. Certo. Però attenzione. Aspetta un attimo intanto, Luca, perché voglio ricordare che dalle 11 in avanti, con un analista finanziario, con Andrea Cattapan di Consultic, spiegheremo agli ascoltatori, poi magari saranno interessati nella fattispecie tutti i piccoli azionisti della Popolare di Vicenza, che cos'è un aumento di capitale, come funziona, come si fa, come si aderisce, qual è la differenza fra un aumento di capitale di una banca o di una società quotata e l'aumento di capitale di una società, nella fattispecie Popolare di Vicenza, che invece non è quotata in borsa. Certo. Come si fa a calcolare la convenienza dell'adesione o meno? Cosa succede se invece non si aderisce? Chiusa parentesi, per cui per le domande su questo 800 24 00 24, Luca, ti lascio completare il tuo ragionamento. Solo per dire che la definizione del prezzo sarà significativa per molti soci che oggi partecipano al capitale di Banca Popolare di Vicenza, perché più sarà basso il prezzo, è più inevitabile dirlo, ma maggiore sarà il sacrificio che questi soci dovranno sopportare per vedere, insomma, in qualche modo garantito il buon esito di questo aumento di capitale. Questa banca ha visto, e chiudo, ha visto abbassare il valore delle sue azioni da 62,5 euro a 6,3 euro nei mesi scorsi, che era il prezzo del diritto di recesso, e molto probabilmente registreremo un ulteriore ribasso, insomma, nella definizione del prezzo della forchetta di oggi. Allora, intanto, per quello che riguarda la situazione odierna, segnalo che Piazza Affari è partita malissimo stamattina, perdeva più di un punto, andavano male anche le altre piazze europee, è stata una seduta di difficoltà anche per l'Asia, tutta colpa del petrolio questa mattina, che sta vedendo di nuovo scendere pesantemente le quotazioni per il fallimento del vertice di Doha del fine settimana. Detto questo, invece, a Milano, dopo una partenza un pochino più incerta, stanno recuperando tutti i titoli bancari ancora una volta. Il migliore fra quelli che stiamo osservando stamattina è Monte dei Paschi, che guadagna l'1,33%, la Pop Milano più 0,7%, Ubibanca più 0,7%, il Banco Popolare pure va bene, adesso non lo ritrovo più, comunque era positivo, oggi peraltro stacca il dividendo. Sul matrimonio Pop Milano e Banco Popolare, Luca, quando avremo nuove notizie? Sicuramente nelle prossime settimane. Diciamo una cosa, il punto finale è novembre, perché in quella fase, il primo novembre, sarà la data del matrimonio, lì si verrà, come dire, verrà annunciato il vero matrimonio. Ci inviteranno, secondo te? È possibile, diciamo che difficile, siamo come data. Tutto il settore, diciamo, che attende con grande fiducia questo evento, perché in qualche modo segnala l'avvio di un processo, cioè di un consolidamento che inevitabilmente l'intero comparto del credito italiano, che ricordiamolo è molto frammentato, dovrà in qualche modo avviare. Aggiungiamo anche una cosa, il Fondo Atlante, che appunto di cui si fa un grande parlare in questi giorni, sarà in qualche modo un acceleratore probabilmente di questo fenomeno. Perché? Perché alleggerire le banche del vero nodo, cioè questo fardello delle sofferenze, cioè crediti che non riescono a essere riscossi, potrebbe in qualche modo spingere le banche e rendere un pochettino più agevole il percorso di avvicinamento e di fusione, perché si eliminerebbe un'incognita, che è quella della copertura di queste sofferenze. La banca centrale aiuterebbe, agevolerebbe probabilmente questo processo, che vede di buon occhio, e questo ovviamente verrebbe garantito. E insomma, questi un po' i temi da monitorare da qui ai prossimi mesi, ma abbiamo fatto anche un punto intanto su quelli da monitorare da qui alle prossime ore, a cominciare dalle novità in Casa Popolare di Vicenza. Luca, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Tra l'altro, a proposito di banche, oggi staccano le cedole, oltre al Banco Popolare che ho appena citato, anche Fineco Bank, Banca Mediolanum, Prismian e Unicredit, e questi peraltro sono titoli che scendono molto. A Milano Unicredit perde quasi 3 punti, Fineco meno 1,27, scendono anche i titoli petroliferi a causa del petrolio. È tutto uno staccamento. Stacca di qua, stacca di là, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, tra poco. Cuore e denari. Fatto il punto di borsa sulle banche, un punto che in realtà avrebbe potuto essere anche allargato perché le notizie ce ne sono tante, ma abbiamo fatto un piccolo focus proprio sulle principali del giorno, e a parte le notizie che hanno a che fare con il sistema bancario italiano, oggi abbiamo anche una notizia di carattere internazionale che racconta anche un po' di noi e del rapporto banca-cliente, perché viene rilasciato, abbiamo una bella anteprima, Nicoletta. Viene rilasciato proprio in queste ore il World Retail Banking Report 2016. Io l'ho detto all'inglese per definire un rapporto mondiale che è elaborato dalla società di consulenza Capgemini, che fotografa il comportamento e le scelte finanziarie di oltre 16.000 clienti bancari di 32 paesi in tutto il mondo. Quindi stiamo parlando di una delle più grandi ricerche sulla esperienza dei clienti bancari, appunto, nel suo genere. Cosa ci racconta questo rapporto? Cosa racconta in particolare del rapporto fra italiani e banca, che noi sappiamo essere molto travagliato anche per le vicende che abbiamo, sulle quali siamo tornate prima. E è un momento appunto di grandi cambiamenti, di fronte ai quali i cittadini hanno ben ragione di essere confusi e spaesati, per cui alla luce anche di questo, cosa ci indica questo rapporto? Lo chiediamo a Monia Ferrari, responsabile commerciale per il settore banking di Capgemini in Italia. Dottoressa Ferrari, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Allora, i punti più rilevanti di questo rapporto che io ho potuto scandagliare molto velocemente, emerge con grande chiarezza il tema tecnologico e tutto ciò che attiene al mondo che viene definito fintech, cioè la digitalizzazione, l'applicazione della tecnologia all'industria bancaria, ma non solo. Dottoressa Ferrari, ci racconta qualcosa di più? Intanto, di questi 16.000 clienti bancari di 32 paesi, quanti appunto quanto pesa in questa inchiesta l'Italia? Ma allora, l'Italia ovviamente sappiamo che a livello globale non è un paese comunque importante. Nell'ambito dell'Europa noi ci collochiamo all'interno dell'Europa occidentale e centrale per quanto riguarda il nostro campione, dove rappresentiamo comunque per quanto riguarda il campione europeo all'incirca un 10-15%. Quest'anno quello che mostra il report in particolare è che è migliorata questa esperienza che le banche forniscono ai propri clienti, sia in termini di prodotti messi a disposizione che di fruibilità dei canali attraverso cui il consumatore si relaziona con la banca. Allora, lascio concludere, faccio la domanda. Vado con la domanda, dottoressa Ferrari, perché c'è un tema molto interessante appunto che emerge dal rapporto, che stanno facendo grandissimi passi avanti verso i clienti le cosiddette aziende del comparto fintech, e le banche dicono, ammettono di non essere adeguatamente preparate a gestire questa minaccia emergente. Allora, ci spiega esattamente di che cosa hanno paura, che cos'è un'azienda fintech e perché la banca, poi vedremo perché è proprio l'italiana per esempio che la percepisce come tale, la percepisce come minaccia? Allora, la fintech, per dirla in parole molto molto semplici, è un'azienda che è un'azienda non bancaria che offre servizi o prodotti finanziari. Per fare qualche esempio un pochino noto a tutti, Amazon Payments, Apple Pay, Google Wallet, PayPal, che sono servizi che possiamo utilizzare anche noi correntemente nella nostra quotidianità. Questo è un esempio di fintech. Ma si parla di fintech anche per esempio in società che offrono servizi di consulenza finanziaria online. Ecco, allora, queste aziende ovviamente hanno dei vantaggi, sono aziende più snelle, sono aziende che offrono servizi molto veloci, queste sono le principali caratteristiche che apprezza la clientela. Sicuramente sono ambiti ancora da un punto di vista normativo meno regolamentati, e questo ovviamente è un vantaggio per queste fintech, che hanno anche grandi capitali a disposizione, perché quando parliamo di società come Amazon o Apple ci siamo detti un pochettino di cosa stiamo ragionando. Allora dovremmo dare per scontato, dottoressa Ferrari, che se dovessimo chiedere ai nostri ascoltatori quante volte nell'ultimo anno in che modalità hanno utilizzato un'azienda fintech, appunto ci diano delle risposte positive, e gli italiani sono fruitori anche abbastanza soddisfatti di questo mondo. Il tema è appunto poi come si relaziona questo mondo con il sistema bancario tradizionale. Perché questo rapporto quest'anno ha voluto scandagliare proprio questo mondo? Ma perché oggi la fintech è una minaccia incombente. Allora, sicuramente non ha ancora preso, diciamo, possesso di gran parte del business bancario, perché oggi ci siamo alle fintech, soprattutto ad esempio in Italia, si concentrano molto sull'ambito dei mobile payments, quindi pagamenti attraverso cellulare e pagamenti online, ma sicuramente sono aziende che stanno investendo tanto e che si stanno interessando anche ad altri servizi che oggi offrono in modo prevalente le banche. Faccio un esempio, i prestiti. Anche qui stanno nascendo tante realtà, anche in Italia, che offrono prestiti ai consumatori, raccolgono denaro, tra l'altro, che viene reinvestito per offrire il social lending, esatto, che sta sicuramente prendendo piede, e quindi le banche non possono ignorare questo fenomeno. Allora, intanto che si decidono se ignorarlo oppure cavalcare questo fenomeno, Nicoletta, casa tua banca tradizionale, conto online, home banking? Facciamo un po', sono più per la banca tradizionale, lo sai, però mi avventuro anche certo. Perché devo, ma se no io sai che sarei molto tradizionale. Non ho capito perché la dottoressa Ferrari ha parlato però di minaccia. Esatto, ma perché il termine viene usato tante volte nel rapporto. Perché minaccia? Perché la banca non la può cavalcare come un'opportunità, ma magari per migliorare i propri implementari, i propri servizi e le proprie dotazioni tecnologiche, accontentare un po' di più il cliente? Allora, sicuramente può essere considerata anche un'opportunità se si è pronti ad accoglierla, se si è pronti anche in termini di sistemi. Oggi le banche, per potersi aprire a questi servizi, diciamo in questo ecosistema digitale, no, che si sta creando, hanno bisogno anche di fare grossi investimenti da un punto di vista dei sistemi core della banca, dei sistemi con cui oggi gestiscono la banca, che non sempre sono pronti da un punto di vista tecnologico ad aprirsi in modo così come è necessario fare per poter colloquiare con questi nuovi operatori, che appunto sono operatori nuovi per il settore dell'intermediazione finanziaria. Grazie, grazie a Monia Ferrari per essere stata con noi Capgemini in Italia. Noi intanto ci fermiamo perché tra poco abbiamo il giornale radio, ma come vi dicevo appunto nella seconda parte della trasmissione, insieme alle tantissime notizie di cuore, per chiudere invece il capitolo denari parleremo proprio del tema aumento di capitale, come funziona, come non funziona. Claudio da Verona ci scrive a riguardo dell'ennesimo aumento di capitale che farà il Banco Popolare, 1,5 miliardi, quindi anche questa banca ha bisogno di una bella cifra per sposarsi con la Pop Milano, deve portare una bella dote, esatto, al quale stavolta non vorrei aderire, ci racconta Claudio. Cosa mi comporta? Esattamente queste le domande che vorremmo ricevere da voi a partire dalle 11. 800 24 00 24, vi aspettiamo, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati di nuovo insieme. Allora, ci piace in genere, quando facciamo i nostri approfondimenti, trovare, no, la parola chiave. Quella di oggi è banca, purtroppo è la parola chiave di tante nostre trasmissioni. Allora, in apertura con Luca Davi del Sole 24 Ore abbiamo fatto il punto della situazione sulle notizie di cronaca che stanno anche animando la seduta di borsa, ma in realtà la notizia principale di cui abbiamo parlato è il fatto che entro stasera, o anzi credo che sia, ci sia un consiglio di amministrazione verso le 18, la Popolare di Vicenza vara il prezzo con cui sbarcherà in borsa e con cui poi dovrà essere effettuata l'operazione straordinaria sul capitale, l'aumento capitale da 1,750 miliardi di euro, naturalmente ricapitalizzazioni richieste dalla Banca Centrale Europea e non solo, e questa è anche la prima prova a cui sarà chiamato a cimentarsi il Fondo Atlante, il nuovo fondo di stabilizzazione bancaria. Allora, visto che il nostro presupposto era questo, abbiamo pensato anche di fare un po' di chiarezza a beneficio dei nostri ascoltatori su come funzionano queste operazioni straordinarie sul capitale. Che cosa significa fare un aumento di capitale? Cosa deve fare un piccolo azionista di una società che deve farlo? Che differenza c'è se l'aumento di capitale lo fa una società quotata in borsa o se lo fa una società non quotata in borsa, come nel caso appunto della Popolare di Vicenza? Cosa succede se si aderisce all'aumento di capitale o se si decide di non aderire, come ci racconta un ascoltatore che è preoccupato per l'aumento di capitale che deve fare il Banco Popolare? Insomma, ne abbiamo un bel po' di carne al fuoco per commentare appunto questi argomenti con Andrea Cattapan, analista dell'area risparmio gestito di Consultic, che è una società di consulenza indipendente che conosciamo molto bene, ci aiuta sempre in tante trasmissioni. Cattapan, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, un tema caldo che anche in casa Consultic stanno studiando molto dettagliatamente appunto per la loro clientela. Intanto, se avete in questi prossimi 7-8 minuti di tempo a vostra disposizione, se volete potete farci anche delle domande all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666. Cattapan, l'ABC dell'aumento di capitale, che cos'è questa operazione? Beh, bisogna intanto dire che è un atto di natura straordinaria che fanno le società e ha la primaria finalità di aumentare la dotazione patrimoniale della società, quindi aumentare il capitale sociale attraverso ad esempio l'emissione di nuove azioni. Allora, tra l'altro l'aumento di capitale può essere a pagamento ma può essere anche gratuito, perché in questo caso la società decide per esempio di assegnare nuove azioni ai già azionisti ma senza che questi sborsino alcunché. Esatto, sono le due tipologie, quindi nell'aumento del capitale a pagamento, che si definisce anche poi aumento reale, il vecchio azionista dovrà sborsare in pratica capitale per aderire e quindi conferire nuovo capitale alla società. Invece con l'aumento di capitale gratuito si tratta sostanzialmente di un giro, una partita di giro a livello contabile, dove dalle quote di riserva queste vengono computate a livello di capitale sociale, quindi il capitale sociale complessivo aumenta, ma solo attraverso una modalità interna, e l'azionista non deve in pratica, certo, pagare niente, si vedrà un numero di azioni superiore, però dal valore inferiore, in pratica il suo controvalore investito non cambierà. Esatto, diciamo che quelli di aumenti di capitale di cui stiamo parlando in questo periodo, quelli che devono fare appunto le banche, che devono ricapitalizzarsi, per l'appunto di gratuito non vediamo un bel niente. Esatto, cattapanne, ecco, esatto, sono tutti, sì, a pagamento. È proprio così. Allora, parliamo appunto dell'operazione che farà la Popolare di Vicenza. Quando poi stasera conosceremo appunto il prezzo, sapremo anche qual è il riferimento con cui gli azionisti possono calcolare appunto se per loro è conveniente o meno aderire. Però in questo caso parliamo di una società, di una banca nella fattispecie, non quotata. In questo caso però anche i piccoli azionisti sono interpellati appunto per aderire all'operazione. Assolutamente, assolutamente. Il codice civile disciplina l'aumento del capitale per tutte le società, che siano quotate o non quotate. Chiaramente poi però, a seconda della diversa tipologia, per l'azionista cambia qualcosa. Per le banche quotate tipicamente, dopo che viene emanato il prospetto informativo, l'azionista sa che gli verranno attribuiti dei diritti di opzione per aderire all'aumento di capitale, e ogni tot azioni vecchie che possedeva potrà sottoscrivere a un determinato prezzo le nuove azioni. Per la banca non quotata invece cambia un po', in quanto non essendoci mercato regolamentato dove le azioni sono quotate, non esiste neppure un mercato dove vengano trattati i diritti che vengono assegnati, e questo pone, diciamo, delle differenze tra queste due tipologie di aumenti di capitale. Per la Banca Popolare di Vicenza, che prima si citava, ad esempio, questa è una banca non quotata, quindi non esiste né un mercato di quotazione delle azioni né ce n'è uno per gli eventuali diritti di opzione. E peraltro poi, se ricordiamo che fine hanno fatto i valori delle azioni già in possesso appunto dei piccoli azionisti della Popolare di Vicenza, già possiamo immaginare che difficilmente potranno aderire a questa nuova operazione straordinaria. Ecco perché esiste anche la presenza di Unicredit a garanzia della prossima operazione appunto di aumento di capitale. Dottor Cattapan, c'è anche questa situazione un po' nebulosa, no, per quello che riguarda la POP vicentina. Sì, è chiaro che se non fosse intervenuto probabilmente il governo a sostegno, con la promozione del fondo Atlante, è probabile che Unicredit si sarebbe trovata a dover sobbarcarsi praticamente tutto l'inoptato dell'aumento di capitale, ossia quella parte di aumento di capitale che in gran parte probabilmente il retail non sarebbe andato a sottoscrivere, certo, e quindi avrebbe diminuito i propri ratio patrimoniali per poter aiutare un'altra banca, quindi a proprio personale scapito. Con il fondo Atlante questo rischio operativo viene in pratica frammentato tra tutti quelli che partecipano al fondo Atlante, quindi è un rischio anche sensibilmente inferiore. Allora, senta, ci faccia un esempio per capire che tipo di suggerimento possiamo dare ad un ascoltatore che, ammettiamo appunto, sia azionista della POP Vicenza o anche del Banco Popolare, appunto, che presto farà il suo aumento di capitale da 1 miliardo oppure e mezzo per sostenere finanziariamente l'operazione di integrazione con la Popolare di Milano. Diamo due indicazioni ai nostri ascoltatori appunto per capire se hanno meno convenienza finanziaria ad aderire ad un aumento di capitale. Quali sono i parametri, gli elementi che un piccolo azionista deve tenere in considerazione? Allora, ammettendo che per esempio della POP Vicenza, ma potrei parlare anche della POP Micro che ho qui davanti, un azionista ha 100 azioni e conoscerà le condizioni appunto dell'aumento di capitale, che cosa deve fare per capire se gli conviene o no aderire alla nuova operazione straordinaria? Allora, per quanto riguarda Banco Popolare, banca quotata sul mercato già da molto tempo, l'operazione è molto semplice, nel senso che se il socio ha 100 azioni gli verranno attribuiti 100 diritti, e ogni tot numero di diritti potrà sottoscrivere a un determinato prezzo le nuove azioni. Ad esempio, ogni 10 deve fare tutto il pacchetto integrale o può decidere anche un'adesione parziale? Può farlo anche parziale. questa sarà poi sua prerogativa, se rimane con dei diritti non utilizzati, noi può andare poi a venderli sul mercato. Questa è una sua scelta. Diciamo che nel caso della banca quotata, l'azionista deve porsi la problematica se investire a quel prezzo che viene stabilito nuovo capitale sulla banca, però quantomeno come riferimento l'azionista di una banca quotata ha il prezzo di borsa che gli dice più o meno, certo, ecco, quanto il mercato valuta i titoli. Però Popolare Vicenza invece il problema è doppio per l'azionista. Intanto perché è un aumento di capitale fatto senza diritto di opzione. Questo significa che il già socio può decidere se fare o non fare l'aumento di capitale, però non può vendere il diritto di opzione, perché non c'è. Quindi questo è disciplinato dal codice civile e lo permette solo quando lo esiga l'interesse della società. In questo caso è primario, nel senso che se Vicenza non fa un aumento di capitale che va a gonfie vele, poi ecco, a livello poi normativo, a livello di unione bancaria, quindi di BCE, ci potrebbero essere delle problematiche. Il fatto di non inserire il diritto di opzione garantisce la possibilità a Popolare Vicenza di andare a fissare il prezzo praticamente sul mercato, in pratica facendo purtroppo soffrire i vecchi azionisti che a questo punto che hanno già sofferto parecchio, direi, esatto, anche più che a sufficienza. Esatto. Cattapan, grazie per essere stato con noi. Allora, abbiamo spero appunto di aver intanto un po' chiarito la natura delle differenti operazioni che si possono presentare sul mercato appunto a beneficio dei nostri ascoltatori. Non appena magari Pop Vicenza avrà fissato il prezzo del suo aumento di capitale, ci ritorneremo per andare proprio a spiegare, magari proprio con l'esempio veramente concreto, ai nostri ascoltatori se loro conviene farlo o meno. Detto questo, direi che per il mondo bancario per la parola oggi chiave di oggi è rimasta, ecco, banca, quindi come sempre cuoredenari@radio24.it. vi invitiamo ad andare naturalmente sulle pagine del nostro programma, dove potete trovare anche gli approfondimenti con delle interviste agli esperti per le notizie che vi abbiamo raccontato della parte salute, che sono arrivate proprio fresche da questo weekend: il vaccino antiacaro, la conferma della relazione dello Zika per la microcefalia, di cui trovate un approfondimento, come per il vaccino antiacaro, per le nuove forme di asma. Epatite C in aumento, una bella intervista, sotto accusa non solo i rapporti sessuali ma anche piercing, tatuaggi, filler, e quindi attenzione, sta aumentando soprattutto nelle donne giovani in età fertile. Ma la notizia che ha colpito la nostra attenzione, che ci dà lo spunto per riflessioni nella seconda parte della trasmissione, riguarda la morte di Laurence Chirac, che è figlia maggiore dell'ex capo di Stato che guidò la Francia tra il 95 e il 2007, è deceduta per un attacco cardiaco dopo aver lottato per più di 40 anni con l'anoressia. Di anoressia si muore, e si muore ancora troppo spesso. Il tema non viene, no? È difficile sempre parlare di anoressia, spesso lo si fa solo in concomitanza di queste, esatto, tragedie. Noi vogliamo parlarne oggi perché l'età di esordio di questa malattia si sta sensibilmente abbassando. Ci sono bambine di 10-12 anni che sono estremamente preoccupate del loro aspetto fisico, della loro alimentazione, vogliono mettersi a dieta. Spesso i genitori rimangono in qualche modo in impasse, non sanno che cosa dire, cosa fare, pensano che si tratti di un capriccio, di una moda. Allora, apriamo gli occhi, e lo faremo con un grande esperto, e questo ci darà anche modo per non solo parlare di anoressia, ma in generale del rapporto che abbiamo con il cibo. Tutti noi lo sappiamo bene che il cibo risente molto delle nostre emozioni. Quando siamo preoccupati, quando siamo felici, siamo innamorati, ci sono persone che mangiano di più, mangiano di meno, sentono dei desideri irrefrenabili per alcuni alimenti, e poi proprio sarà la tavola a guidarci nel corso della nostra puntata. Parleremo di scelte che, attraverso questo che vi spiegheremo, perché c'è un nuovo campo di studi, la psichiatria nutrizionale, che ci racconta che siamo quello che mangiamo, ma quello che mettiamo in tavola, per quella stretta relazione che esiste tra i due cervelli, di cui abbiamo parlato tanto, in modo particolare del microbiota, riesce in qualche modo a gestire, prevenire alcuni stati di malessere che vanno dallo stress, dall'ansia, all'insonnia, a quella stanchezza. Di tutto questo parliamo con un grande esperto che oggi è venuto a trovarci, il dottor Stefano Erzegovesi, medico, psichiatra, nutrizionista, coordina le attività cliniche di ricerca al Centro per i Disturbi Alimentari all'Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora dottore, ritorniamo a Laurence Chirac. Questa è una di quelle storie che, come scrive Cesare Martinetti sulla Stampa, rendono umane le famiglie dei potenti. Tanto, per tanto tempo la malattia di Laurence è stata tenuta nascosta, tanto che si legge su Le Point, molti francesi pensavano che Chirac avesse solo una figlia, Claude, che poi l'ha seguita, ma è indubbio che in un'intervista al suo biografo Paul Pan, il vecchio presidente aveva confidato: non ho ragione di negare che Laurence è stata il dramma della mia vita. Ho avuto una figlia intelligente e bella che a 15 anni si è ammalata di anoressia mentale. Facciamo un piccolo focus su questa notizia, che ci darà modo, soprattutto dottore Erzegovesi, di mandare dei messaggi molto chiari ai genitori all'ascolto. Noi stiamo parlando non di un desiderio portato all'eccesso di essere magra, ma di una malattia. Assolutamente sì. L'anoressia è una malattia esattamente come una malattia, la polmonite o un tumore. Esattamente come la polmonite o un tumore, è una malattia per cui si può morire. Giustamente, sì, l'occasione della morte di qualcuno per anoressia è l'occasione anche per parlarne, ma credo che sia un'occasione utile per poter fare il punto su un messaggio che è: evitare gli estremi nell'anoressia, che sono, da un lato, l'anoressia è un capriccio e quindi automaticamente, se è un capriccio, passerà da sola. Passa da sola, no. Diamo le due schiaffi e passa tutto. Dall'altra parte, che è l'altro atteggiamento però che non va bene, è l'eccesso allarmismo, cioè l'anoressia è una malattia mortale, non facciamo niente perché tanto muoiono tutti. Ecco, no, di anoressia si muore sicuramente molto, considerato che è una patologia giovanile. Le statistiche dicono dal 6 al 14% di mortalità, quindi comunque una mortalità alta. Trattandosi poi di pazienti molto giovani. Molto giovani, certo, non è la mortalità di un anziano con pluripatologie. Certo, quindi sono numeri che pesano molto di più. Molto di più. Da dire anche che l'anoressia è una malattia e come tale va considerata, che vuol dire? Mettiamoci in mente che davanti a determinati sintomi, che sono la ricerca della magrezza, l'ossessione per il cibo, la fissazione per la dieta, ma in un'ottica che non diventa più in alcun modo una fissazione legata al benessere, diventa solo ed esclusivamente un'ossessione. Davanti a questi segnali bisogna attivarsi, cercare un aiuto, cercare una cura e soprattutto avere idea di quelle, diciamo, due o tre cose da fare sempre e di quelle due o tre cose da non fare mai per un disturbo alimentare. Ad esempio? Ce le racconti. Cose da non fare mai. Cose da non fare mai. Andare da uno specialista singolo, ovvero tipicamente il buonsenso ci dice: io vedo una figlia che comincia a avere le fissazioni con la dieta, la mando dal dietologo. Il dietologo le dirà: mangia questo e quest'altro, e automaticamente questo porta a un miglioramento. La letteratura scientifica è molto chiara: la terapia con il singolo dietologo non fa nulla o tendenzialmente peggiora un po' il disturbo alimentare anoressico in fase iniziale. Quindi non andare mai dal dietologo, non andare mai da un medico internista che semplicemente fa una marea di esami, che vuol dire, non so, ho il cuore che batte piano, faccio tutte le analisi per il cuore, piuttosto che ho il fegato che non va bene, faccio tutte le analisi per il fegato. Fondamentalmente bisogna fare un percorso che è cosiddetto multidisciplinare. Quindi cosa fare sempre? Andare da qualcuno, un centro, cioè un gruppo di persone che si occupa di disturbo alimentare, che funzionano in equip molto stretta. Ci deve essere almeno un medico, uno psicologo e un dietista o nutrizionista che lavorano ben coordinati per iniziare ad affrontare un problema che già dall'inizio non può essere un problema del tipo: tu hai una malattia, perché la malattia è grave, ma chi ne soffre non riconosce di averla. Anzi, pensa di aver trovato una soluzione. Certo. E quindi più che dire a queste ragazze: hai una malattia, ti curo, bisogna dire: capisco che in questo momento la tua qualità di vita sta scendendo, troviamo un modo per cambiare il tuo modo di funzionare. Quindi questo è un po' il punto da cui ripartire. Quindi guarire è possibile, tornare ad una vita normale sotto ogni punto di vista anche. Lei faceva accenno a dei centri dove lavorano più specialisti per dare proprio un servizio alla ragazza. Parlo al femminile perché è più frequente nelle ragazze, più ma più del 90%. Dove si trovano questi centri? C'è un elenco a chi ci si può rivolgere? Come? Quali sono le possibilità di cura? Il Servizio Sanitario Nazionale come risponde a questi bisogni? Ma c'è l'Istituto Superiore di Sanità, si è occupato in particolare, e il Ministero della Salute, di creare un sito, che è disturbialimentarionline.it, dove c'è una mappa di tutti i centri per i disturbi alimentari presenti sul territorio italiano. È sicuramente vero che i centri, rispetto a quelli che sono i bisogni, dovrebbero essere di più. Però io credo che già questo sia un segnale molto forte per dare quello che è veramente un orientamento. Noi troviamo famiglie che a volte passano 1, 2, 3 anni prima di riuscire a iniziare un trattamento adeguato per il disturbo alimentare, perché non sapendo dove andare funzionano, certo, sul passaparola piuttosto che su così semplici consigli non qualificati, con il rischio poi fondamentalmente di perdere molto tempo. Dottoressa Ergovesi, ci sono degli studi che stanno verificando un possibile legame con l'intestino. Sembra che chi soffre di anoressia abbia un microbiota. Attenzione, di microbiota parleremo nel corso della trasmissione subito dopo i mercati. Dobbiamo tenere buono questo organo che ci portiamo in giro perché ha delle ricadute molto importanti sulla nostra salute. Bene, sembra che chi soffre di anoressia abbia un microbiota particolare. Anche per la celiachia, no? Sono stati notati simili collegamenti. Per tanto tempo, no? Si è cercato di capire quali potessero essere le cause o i fattori predisponenti o di rischio di questa malattia. Il microbiota c'entra, prima si parlava dell'ambiente familiare, uh-huh, e soprattutto del rapporto con le mamme. Questo ha fatto colpevolizzare, no, molto, molto i genitori, soprattutto le madri. Dottore Zegovesi, che cosa si sa adesso? Questo è importante. Il microbiota è un argomento che poi approfondiremo. Sì. di grande interesse scientifico. Tra l'altro ce l'abbiamo tutti, quindi 800 24 00 24 per tenerlo da conto. Dottore, quindi il microbiota nel disturbo alimentare anoressico è sicuramente un microbiota sofferente legato a un digiuno che per l'anoressia è un digiuno molto specifico. Non è semplicemente mangio poco, ma è mangio poco di alcuni nutrienti cosiddetti plastici, cioè quelli che servono a costruire il mio corpo. Mangio invece molto di nutrienti tipo la verdura piuttosto che nutrienti non plastici. Questo fa sì quelli che noi pensiamo, mangio poco di quello che potrebbe farmi ingrassare e mangio di più quello che invece non dovrebbe pesare sulla bilancia. L'ho tradotta in modo... Detto così è perfetto, non fa una piega, ma che vuol dire contemporaneamente se io mangio un estremo di ciò che fa bene, mangio un estremo di e non mangio in maniera estrema ciò che tra virgolette fa male, perché in realtà fa benissimo, mangiato in giuste quantità, mi ammalo. Il microbiota in questo caso risente sviluppando una popolazione che è quello che si può chiamare un microbiota da digiuno anoressico, che appunto non è il digiuno di chi va all'Isola dei Famosi piuttosto che che viene rapito e quindi non può mangiare nessun tipo di cibo. Ed è un tipo di microbiota. Sembra essere più una conseguenza. Io se dovessi dire rispetto alle cause del disturbo alimentare una cosa fondamentale, che è una delle cose che dicevamo prima da sapere sempre, mai fissarsi su un'unica causa, per cui un tempo si diceva la causa è la mamma, poi si è passati alla causa è la società, le veline, il modello di magrezza e tutta questa serie di cose, piuttosto che la causa è l'industria alimentare che ci dà le merendine, piuttosto che la causa è il microbiota. Ecco, partiamo dal presupposto che nessuna di queste è una causa, tutte sono cause, ma vediamole in una maniera assolutamente integrata e concentrica. Io ai miei studenti dico di tagliare una cipolla a metà e di vedere tutti i cerchi concentrici che si vedono. Ecco, la causa del disturbo alimentare è l'insieme di ognuno di questi centri concentrici, dal più piccolo interno che è il DNA, al più esterno che è la componente sociale, ambientale, culturale, ma nessuno di questi da solo può essere un indice di causa del disturbo alimentare. 800 24 0024 per parlare con noi. Grazie, sono bellissimi, ne parleremo. Dottor Erzegovesi, lei ha scritto questo libro molto interessante. Parleremo del rapporto complesso, condizionato da tante variabili, che ciascuno di noi ha con il proprio cibo. Adesso ci sono persone che mangiano solo esclusivamente gli alimenti che fanno bene, escludono altri, diminuiscono molto la qualità e la varietà della loro dieta. E poi domande sul microbiota: che cos'è, come possiamo aiutarlo a stare bene e quali ricadute ha sulla nostra salute. E dei due cervelli, quello che sta in alto e quello che noi portiamo in giro nella pancia, quale dei due comanda? Come si parlano? 800 24 0024, mercati e poi di nuovo insieme. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, siamo quello che mangiamo, ma per dire la verità siamo anche come mangiamo. Questa seconda parte di Cuore e Denari prende spunto dalla morte della figlia di Chirac, Laurence. Ha combattuto per più di 40 anni con l'anoressia e questo ci ha dato un po' lo spunto, l'occasione, lasciatemi dire, per parlare di questa malattia di cui si parla troppo poco, ma che sta aumentando. E da questa riflessione con il dottor Erzegovesi, che è in studio con noi e ci ha raccontato quali sono i segnali da non trascurare, soprattutto a chi bisogna rivolgersi, vorremmo anche guardare un po' noi stessi, il rapporto che abbiamo con il cibo. 800 24 0024 o il rapporto con il cibo che hanno i nostri figli, i nostri compagni. Sicuramente siamo bombardati da un lato dai messaggi di magrezza, ma dall'altro anche del cibo buono che va bene, quello che fa male, oddio, bisogna eliminarlo. Ci sono sempre più persone che per scelte non solo etiche stanno cambiando in modo radicale la loro alimentazione. E questo è un rischio perché anche il cibo è anche piacere, soddisfazione, gratificazione. 800 24 00 24 per parlarne con noi, ma intanto, dottore, volevamo con Deborah leggerle alcuni dei messaggi che sono arrivati alla parola anoressia. Sì. Deborah, vuoi... Intanto Paola da Modena, una mamma, ci chiede se una bambina di 6 anni che non ha un buon rapporto con il cibo, mangia poco, potrà avere in futuro problemi di anoressia. Qualcuno si chiede se non sia un'espressione di una forma di depressione. Un altro ascoltatore, Alfredo da Napoli, si lamenta del fatto che sono pochi centri e chiede a 50 anni se si ha questo problema, a chi bisogna rivolgersi. Quindi abbiamo una casistica molto molto ampia. Sì, a cui aggiungiamo Ulisse, che ci scrive, un ascoltatore fedele, esatto, che ci scrive che l'anoressia è una malattia che deriva da modelli culturali sbagliati che la nostra civiltà propaganda, come ha anticipato il dottor Erzegovesi, li mettiamo tutti insieme, è multifattoriale, giusto, l'anoressia. Sì, non possiamo attribuire. Immaginiamo la nostra cipolla, mi sembra che l'esempio della cipolla sia molto chiaro, e quindi dal centro fino alla buccia tutti gli anelli possono avere la loro... Sì. Dal DNA, dal centro proprio di noi stessi, cioè dal nostro codice genetico, fino a tutto quello che è l'aspetto esterno e sociale. Una bambina di 6 anni si può cogliere così? Ecco, i bambini di 6 anni è un argomento importante, non è propriamente una forma di anoressia, ma è verissimo che nell'età infantile, per cui prima della pubertà, esistono delle forme di disturbo alimentare che nell'ultima classificazione, il DSM-5, che è la classificazione psichiatrica più recente, chiamano il cosiddetto ARFID. ARFID sta per disturbo evitante e restrittivo dell'alimentazione. Sono bambini che cominciano a mangiare poco sulla base di meccanismi non ovviamente legati al voler essere magri o in forma. Neanche alle mode. Neanche alle mode, perché non hanno ancora, speriamo che non arrivino anche a quelli di 6 anni, le mode, sì, di magrezza. Ma che hanno a che fare con modelli di paura più del tipo, non so, paura di soffocarmi con un certo cibo, piuttosto che con le caratteristiche sensoriali del cibo, che è una cosa che ogni bambino ha, non so, la cosa viscida, la cosa con un certo colore non gli piace, che però in quel caso diventa una fissazione che comporta una difficoltà ad avere una nutrizione, quindi una crescita normale. In questi casi andate dal pediatra, che comunque prima di tutto fa una valutazione di quelle che sono le curve di crescita. Se c'è effettivamente una riduzione in termini di crescita in altezza o in termini di crescita in quelli che sono i cosiddetti percentili di crescita, è il caso di occuparsene. Allora ci sono dei centri di neuropsichiatria infantile specifici per l'infanzia. Allora abbiamo Silvia, Carlo e Pierluigi. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chiamo perché ho la sorella anoressica che ha 22 anni e non vuole farsi curare. È da 3 o 4 anni che ha iniziato a perdere peso, ne ha persi circa una 35 kg. Volevo sapere come potevo far aiutarla, perché gli ho chiesto di andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, ma assolutamente non ne vuol sapere. Volevo sapere se c'erano delle tecniche che potevo adottare per aiutarla. Allora, teniamo la richiesta di Silvia e aggiungiamo quella di Carlo da Verona. Buongiorno Carlo, benvenuto. Sì, buongiorno. Senta, io ho una bimba di 13 anni e mezzo che prima faceva attività, teatro, ballo, insomma, era molto attiva. Poi da 2 anni che non mangia più, l'abbiamo presa sotto gamba, poi l'abbiamo portata in un centro qui a Verona di disturbo alimentare, facendo un percorso che secondo noi è stata presa un po' sotto gamba, pensando che era un po' un capriccio. Adesso la bimba ha perso 5 kg, pesa meno di 40 kg, mangia poco, addirittura fa cena con il tè, e ci hanno prospettato il ricovero, quindi il sondino, forse a Bologna dovremmo portarla. Io voglio sapere cosa significa sia per la famiglia, certo, che per la bimba portarla fino a trasferirla, punto, a trasferirla, esatto, in un ricoverarla. Esatto. Andiamo a Pierluigi da Brescia, così facciamo inquadriamo il problema. Pierluigi, buongiorno, benvenuto, grazie. Nicoletta, buongiorno. Sì, io volevo semplicemente portare la mia esperienza. Io insegno in un liceo, quindi è un punto di vista, diciamo, privilegiato purtroppo in relazione alla tematica che si sta trattando. E in modo particolare, brevissimamente, volevo portare l'esperienza di una mia ex alunna, 1,70 m di altezza, esordito in prima superiore, 14 anni, è arrivata a pesare 29 kg, è ricoverata 3 volte. E fino a che al terzo ricovero in una struttura specializzata, io mi chiamo da Brescia, quindi il professor Manara, che certo. Grazie Pierluigi. Allora, Silvia, Carlo e Pierluigi, l'insegnante, fotografano una situazione, dottor Erzegovesi, che lei conosce bene. Prendiamo spunto da queste testimonianze per dare un messaggio e rispondere alle, certo, richieste dei nostri ascoltatori che vogliono sapere che cosa fare. Questo sono tutti e tre aspetti fondamentali proprio dell'inizio della cura. Silvia dice per la sorella, come fare per iniziare? Bisogna partire da quello che dicevamo prima: chi soffre di un disturbo alimentare non lo fa apposta, non ha capricci, ma ha la precisa sensazione di avere, soprattutto per i primi anni di malattia, di avere trovato una soluzione e quindi di non avere una malattia. Per cui chiunque gli dica se io ho 40 di febbre non vedo l'ora di tornare ad avere 36,6 e quindi, certo, di stare bene. Se io invece sono molto magro, ho il terrore puro di poter tornare ad essere come ero prima, cioè a quel punto con la sensazione di non piacermi più, di essere magari preso in giro per la grassezza o altro. Quindi se io ho in testa questa cosa, la prima cosa che devo fare è cercare di capire, parlando con la sorella, che cosa nella sua vita oggi non va più bene come prima. Qualcosa di solito viene sempre fuori. Ad esempio? Mi dirà che non riesce più a stare in mezzo agli altri, perché chiaramente la componente sociale, quando le energie calano, non riesce più ad essere come prima. Mi dirà che ha i capelli più brutti o che ha la pelle più brutta. Mi dirà che fa molta più fatica di prima a concentrarsi nello studio. Teniamo conto che il digiuno dà dei grandissimi problemi di attenzione e concentrazione quando dura dopo un certo numero di mesi. Questa è la prima cosa, cioè trovare qualche elemento che ci possa fare dire assieme: in effetti forse c'è qualcosa che non va. Seconda cosa ancora più importante: per convincere una persona a curarsi bisogna muovere in maniera compatta tutta la rete familiare. Se c'è un solo familiare che dice hai bisogno di curarti, ma gli altri dicono ma no, ma vediamo, magari poi passa, magari da solo, sei stanca, ti viene, sicuramente non ce la facciamo. Se fratelli, genitori, proprio come nucleo base, eventualmente anche nonni o altri collaterali, se comunque o anche sono l'insegnante, importanti, come, ecco, Pierluigi. Ecco, la figura dell'insegnante in questo caso è importantissima, perché ha la possibilità di vedere la persona in maniera discontinua, cioè non la vede dalla mattina alla sera tutti i giorni, cosa che a volte la magrezza, essendo a volte delle magrezze che calano lentamente, sono meno visibili. L'insegnante ha un occhio che può essere un occhio cosiddetto terzo, cioè non è iper coinvolto affettivamente come può essere un genitore, è quindi più obiettivo, magari riesce a vedere le cose in maniera più obiettiva. Carlo ci diceva: a mia figlia hanno prospettato il ricovero, che cosa può capitare? Il ricovero è sicuramente un momento molto, no, molto di rottura rispetto alla quotidianità, e questa è l'unica strada quando la malattia è andata avanti senza argini. Ecco, il ricovero, due cose importanti che diceva l'ascoltatore. Il prendere sotto gamba all'inizio, dicevamo che è qualcosa che può essere o legato a un problema proprio di non buona cura, cioè vado in un centro che non ha un'esperienza così specifica sul disturbo alimentare, quindi tende a minimizzare. Ma a volte il ritardo nella cura, dicevamo, è semplicemente legato al fatto che la persona che ha un disturbo alimentare tende a nascondersi e quindi in qualche modo ritarda l'inizio della cura. Ricovero vuol dire nel momento in cui la patologia è chiaramente in una condizione di danno o fisico o psicologico, per cui può essere il cuore che non batte più bene, che può essere che ci sono delle alterazioni a livello proprio del poter stare in piedi, quindi della pressione, certo, piuttosto che altre cose. Il ricovero significa andare in un ambiente che si scollega, ricovero in centro specializzato per disturbi alimentari, quindi mai ricoveri, certo, così è un reset totale con una rialimentazione, dove l'idea fondamentale è: se un cervello ha digiuno, io torno a rinutrirlo, comunque questo cervello funzionerà meglio, quindi diventerà tutto più semplice. E dopo le informazioni sul traffico, nutriremo il nostro microbiota per cercare di limitare o ritornare magari quei danni che possono arrivare da una vita un po' sregolata, ma anche ansia, stress, depressione. Vi aspetto, microbiota 800 24 0024, a noi. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questi ultimi minuti di trasmissione, parliamo di un nuovo campo di studi, la psichiatria nutrizionale, che promette grandi cambiamenti nella cura del nostro benessere psichico partendo proprio dall'alimentazione. Ci aiuta il dottor Erzegovesi. Cosa mangiare per nutrire bene il cervello in generale? Cosa mangiare per ansia, depressione, insonnia, deficit di concentrazione, tutti questi malesseri, no, di questi tempi? E soprattutto qual è il ruolo di questo microbiota, di questo organo, passiamo a definirlo un organo, che portiamo a spasso con noi e che risente così delle nostre abitudini alimentari e che interessa la ricerca, tanto che noi è anni che parliamo di microbiota in modo un po', no, rispetto con un po' di anticipo con già il professor Gasbarrini della Cattolica di Roma, che già un paio di anni fa ci aveva raccontato di questo straordinario vivaio che ciascuno di noi può coltivare e che ha avuto in sorte. Professore Erzegovesi, dottor Erzegovesi. Sì, ma dicevamo, il microbiota è a tutti gli effetti un organo, come può essere un organo, un fegato. Ha un suo peso, 1-2 kg del nostro peso è fatto di questi batteri, e non spaventiamoci, non preoccupiamoci, cerchiamo, come dicevamo, di farceli amici. Il microbioma sicuramente influisce sul sistema nervoso centrale, o per meglio dire, il cervello con il microbioma si ritrovano ad avere una comunicazione privilegiata e diretta attraverso il nervo vago, che è un nervo che risale dai visceri fino al sistema nervoso centrale. Cosa dobbiamo fare per tenercelo amico? Cosa dobbiamo fare per renderlo il più sano possibile? Prima cosa mangiare il meno possibile? Mangiare il meno possibile gli alimenti che sono eccessivamente raffinati. Gli alimenti raffinati comportano i cosiddetti alimenti con un indice glicemico alto, che vuol dire rapidamente vengono assorbiti, rapidamente vengono, per cui salgono gli zuccheri rapidamente nel sangue, ma altrettanto rapidamente scendono. Quindi farine bianche, zucchero, preparazioni da forno molto concentrate di nutrienti senza fibre. Mangiamo invece alimenti con una quantità di fibre che da un lato abbassa l'indice glicemico, e già questa è una cosa molto salutare. I cereali integrali, i legumi, se ci pensiamo, il buon senso delle nostre tradizioni, ma non neanche delle nostre tradizioni semplicemente italiane, ma delle tradizioni di tutto il mondo, funzionava in questo senso: basso indice glicemico, buona quantità di fibre, dove le fibre, attenzione, non è solo una questione di la fibra mi serve perché così gli zuccheri salgono piano nel sangue. La fibra mi serve perché questa fibra, alcune di queste fibre, le cosiddette fibre solubili, nutrono, diciamo, i batteri buoni, cioè nutrono la popolazione buona di questo microbioma. Quando la popolazione è buona, cos'è che questo mi garantisce? sicuramente di avere un funzionamento mentale migliore, dove per funzionamento mentale migliore intendiamo non solo minori livelli d'ansia, un sonno più riposante o altre cose, ma anche a livello di attenzione e concentrazione. Io quando do un cambiamento di alimentazione a un mio paziente gli dico sempre: io non voglio convincerla che questo le faccia bene o le faccia male, lei faccia semplicemente caso a come si sveglia la mattina dopo nel momento in cui mangia in un certo modo. Se mangerà in una maniera non salutare si sveglierà che sì, deve andare a lavorare, partirà, si sforzerà di fare tutto. Se mangerà in una maniera salutare, aprirà gli occhi con la sensazione di avere una riserva energetica iniziale che è già una riserva molto più consistente. Questa è una cosa convincente perché lo si riesce a sentire come esperienza personale e quindi quello può essere un motivo poi per continuare a mangiare bene. Vedi, cosa vuol dire avere un occuparsi di nutrizione e di psichiatria insieme? Trovare anche un modo per comunicare alla persona che hai davanti, in questo caso al paziente, che forse cerca aiuto ma non ne ha ancora la piena consapevolezza, di aiutarlo a fare un cambiamento nel suo stile di vita, che non avverte come un'imposizione ma come una chance. Ed è quello che cerchiamo di fare noi a Cuore Denari. Dottore, scusi. Questo è fondamentale, perché la chance significa che se io ti dico questa cosa è un veleno, non mangiarla, piuttosto che questa cosa fa benissimo, mangiala tantissimo, se io lo faccio solo per obbedienza, il risultato è quello che abbiamo detto, è un risultato che non dura nel tempo. Per cui migliori quindi livelli energetici, prima cosa. Quindi fibre solubili, pensiamo a tutti gli alimenti che quando li prepariamo, li mangiamo, hanno questa consistenza che ci sembra un po' gelatinosetta, un po' bavosetta. Per cui pensiamo quando prendiamo in mano una pera appena sbucciata, pensiamo a una, non so, una zuppa di saraceno, pensiamo al topinambur, piuttosto che ai carciofi, la cicoria e mille altri alimenti. Piacciono ai batteri buoni del... Piacciono moltissimo e ai loro batteri mandano, buoni. Dicono al cervello suo: oh, qua è arrivato qualcosa qui di buono, dai buone. Che ce la facciamo. Terzo punto, dottore Zegovic, se ci sono, andiamo ai probiotici? Ecco, i probiotici, sì, questi che abbiamo appena detto, cioè le fibre solutili, sono i cosiddetti prebiotici. Cioè do da mangiare bene ai miei batteri, si moltiplicano con i buoni, funziona meglio tutto. Dove per tutto intendiamo sicuramente il cervello, ma attenzione, intendiamo l'ossidazione cellulare, per cui tutti gli aspetti collegati all'invecchiamento, alle malattie degenerative e tutto quello che riguarda il sistema immunitario, quindi le nostre difese contro i batteri, virus, cioè contro gli agenti esterni, ma anche e soprattutto contro le cellule tumorali, cioè quello che noi produciamo internamente. Quindi probiotici. Al di là dei latti fermentati, su cui in questo momento c'è una grandissima espansione di studi rispetto a cercare dei ceppi particolarmente benefici, quindi i vari yogurt da bere di più o meno grande quantità, ma consideriamo la natura e le tradizioni che da sempre nella quotidianità della nostra alimentazione prevedono degli alimenti naturalmente fermentati. I crauti sono gli alimenti naturalmente fermentati. La zuppa di miso, ovvero il miso, che è un prodotto derivato dalla soia, ma che potremmo fare nello stesso modo con i ceci o con le lenticchie, diciamo legumi fermentati. Pensiamo a tutti il kefir, per cui tutti quei derivati del latte fermentati che erano di antica tradizione, servivano per conservare gli alimenti. Cioè, non stiamo scoprendo niente. No, ecco. Diciamo che stiamo capendo come si chiamano. Esatto, ma vero. La realtà ce delle l'avevamo... cose... Ce l'avevamo assolutamente tutta. Questi alimenti, anche in piccole quantità, io consiglio ad esempio di usare, non so, per chi non ama i latticini o per chi non ama cose che possano avere sapori, oggettivamente i sapori fermentati a volte sono molto acidi, quindi anche qui non facciamoci una fissa che poi dobbiamo costringere a mangiare qualcosa che ci dà fastidio. Per carità. Nel momento in cui la mangiamo. Un piccolo latte fermentato che può essere semplicemente, prendiamo una carota a fettine, ci mettiamo un cucchiaino di sale, la teniamo schiacciata in una pentola, quindi la cosiddetta verdura pressata che sviluppa naturalmente una lattofermentazione, ne mangiamo ma proprio due pezzettini dentro la nostra insalata e questo è sicuramente qualcosa che sviluppa i cosiddetti probiotici. Probiotici vuol dire anche attenzione, pesare meno. Se io mangio i probiotici sono più magro. Dottore Arzegovesi, la aspettiamo qua per un'altra puntata. Tantissime richieste da parte dei nostri ascoltatori, scriveteci, grazie. Grazie a voi. Soprattutto per la chiarezza. Buona giornata, noi ci sentiamo domani. Esatto, domani, buona giornata a tutti.